Pronto? Pronto! Ciao! Eccoci! Come stai? Allora, raccontaci un po', vogliamo sapere di questa puntata a Bologna, di questa data al Locomotive, come ti senti? Ok, allora, boh, per Bologna per Bologna sono contento e... Aspetta, fammi un attimo carburare. Che allora, sta succedendo, cosa Marco? Facendo? Che fai? No, adesso stavo sorseggiando del caffè a casa. Povero, gli abbiamo rotto le palle anche durante il caffè. Beh, dopo quest'estate prendiamo delle libertà. No, hai ragione. No, comunque sono contento, sono carico. Poi Bologna mi piace come città. E boh, Ma poi non vedo l'ora di venire. Ah, ma noi ti abbiamo conosciuto infatti quest'estate, ma come è stato girare praticamente tutta l'Italia e tantissime date a un anno, no, dal tuo disco? Come ti senti oggi? Invecchiato. E poi tra l'altro con Bologna hai un rapporto particolare, cioè alla fine qui c'è Cremonini, che è un po' un punto di riferimento, se vogliamo, no? Sì, sì, voglia. Purtroppo però mi sa che ho visto qualche giorno fa su Instagram che anche lui, tipo, cioè il giorno che vengo a suonare a Bologna non so dove sta in giro, quindi no, gli avrei scritto di venire. Non vi beccate? Mi sa che non ci becchiamo, no, neanche gli scrivo. Ma quando hai cominciato immaginavi che cosa sarebbe successo? Cioè, un anno fa Marco cosa aveva per la testa? Ma la musica ce l'ho sempre avuta per la testa, poi chiaramente prima lavoravo come giornalista e come speedy pizza, quindi non era un po' titubante, perché ho sempre pensato, sì, vabbè, però se poi va male che faccio, mi licenzio e poi che boh, devo ricominciare da capo. E invece, bene o male, ci sto campando pure abbastanza bene, quindi tutto sommato ho fatto bene a iniziare questa pseudo carriera, dai. Hai fatto bene, hai fatto gol. Ma senti una cosa, Mai Natale, come nasce questo pezzo? Ci è piaciuto molto? Sì, è bello. Nasce perché tipo l'ho scritta a maggio. Ma come? Che succede? Sì, no, l'ho scritta a maggio, ma in realtà sta tipo la canzone che a scrivere ci ho messo di meno, cioè tipo 10 minuti l'avevo scritta, poi è rimasta praticamente uguale, ho cambiato giusto una frase tipo sul ritornello. Perché praticamente, vabbè, io mi ero mollato, cioè la mia ragazza attuale, il giorno di Natale dell'anno scorso mi ha fatto come regalo quello di lasciarmi. E quindi diciamo ho passato un Natale un po', come potete immaginare, comunque preso a male. Poi vabbè, dopo qualche mese ci siamo rimessi insieme, più che altro è stata una sorta di pausa, insomma, di qualche mese. E quindi boh, quando mi c'ero rimesso insieme mi ero messo un po' a ricordare quel cazzo di Natale di merda. E quindi non lo so, mi è uscita quella roba lì e, vabbè, di base voleva dire che alla fine Natale o comunque le feste uno vorrebbe stare con le persone a cui vuole bene, no? Che, certo. E invece altrimenti, cioè, non è per niente una festa, cioè, è una festa al contrario. E quindi un po', cioè, alla fine la sintesi poi di tutta quella canzone è quella lì. Ho capito. Noi ti abbiamo visto anche a Quelli che il calcio l'altro giorno, proprio mentre suonavi questo brano. Com'è stata come esperienza? No, mega figo, mi sono un sacco divertito. Comunque la televisione alla fine mi piace. Mi piace. Ti ci potresti sì. Abituare. Dove ti vedremo tra qualche mese? No, mi piace, cioè l'unica cosa un po', diciamo, ansia è che comunque tu fai magari le prove e tutto quanto e poi dura il tempo della canzone, è tutto così veloce, quando finisce il pezzo ti inizi un attimo ad abituare comunque all'adrenalina, al palco, allo studio, a queste cose qui e già devi andare via, questa è l'unica rottura di palle, ecco. Però tutto sommato mi sono divertito. Come tutte le cose belle durano sempre pochissimo. Ma si sa già oggi, Giorgia? Vedi, tra voi due alla fine devo sempre diventare il grande puffo. Quanta saggezza. Ma sentite una cosa, vi parlo al plurale perché tanto è così. Una domanda a entrambi, ma quest'estate, no? Che ci siamo visti tante volte, alla fine cosa è cambiato rispetto magari a una data in un club, secondo voi? Vai Marco. Guarda, diciamo che io preferisco quelle club, ma di base preferisco i concerti molto più ristretti proprio a livello personale. Li preferisco perché mi piace più creare, diciamo, un rapporto intimo con l'ascoltatore, perché mi sembra più vero. Quindi quando c'è tanta gente, tendenzialmente sia l'artista sia il pubblico ha una sorta di distacco percettibile, che comunque non entri troppo, secondo me, a livello empatico con chi ti ascolta. Cioè, ho sempre preferito più i concerti ristretti, per quello comunque molto spesso, cioè, se quando la booking mi chiede, l'agenzia mi chiede, senti, ti va di fare un acustico, io rispondo sempre di sì, perché è proprio un tipo di proposta musicale intima che a me, cioè, per come sono fatto io di carattere, mi piace molto più il concerto con 50 persone magari a casa di uno, piuttosto che fare il concertone, capito, con 100.000 persone. Però certo, meraviglia. Ma io volevo sapere, Marco, ti sei fatto un regalo dopo tutto questo anno? C'è una soddisfazione che rimandavi e poi hai detto, oh, adesso è arrivato il momento? Mi sono trasferito. Ah, dove? Quindi dove? Adesso, no, sempre a Roma, però non vivo più con i miei da un paio di mesi e cioè, questo è il regalo che mi sono permesso di fare. Comunque sono un po' più libero, un po' più adulto, vado a fare la spesa, mi bagni, riempi il frigo, le lavatrici. Hai arredato già? Sì, ho la casa più bella del mondo, chiaramente. Ecco. Eccolo. Volevi mettere bocca anche sull'arredamento? No, per carità, mi fido. So che ha un occhio estetico di un certo livello. Ma invece vogliamo sapere, per caso hai già cominciato a scrivere qualcosa di nuovo oppure? Sì, no, sto scrivendo delle robe nuove, diciamo più o meno ho mezzo disco, però non è che sento questa fretta di uscire subito, perché comunque il tour è abbastanza sfiancante. Sì. Quindi e poi mi va pure un po' di sparire, di fare un mega disco, di prendermi tutto il tempo che voglio, insomma, a meno che non mi impongono di uscire, cioè se qualcuno, ancora devo parlare di queste cose, mo sto concentrato sul tour, poi sulle vacanze di Natale e poi ci siamo dati appuntamento per il futuro dopo le feste, quindi per parlare, diciamo, delle varie cose, però l'idea mia poi quando mi siederò, ma già gliel'ho detto a quell'etichetta, insomma, che fino a che non sono mega soddisfatto di prendermi tutto il tempo, tanto diciamo che comunque mezzo disco, 4-5 canzoni fighe di cui sono molto contento, ce l'ho già, quindi già sono hai. Anche abbastanza tranquillo, diciamo, tra virgolette, cioè i pezzi allora ci stanno già. No, si sarà messo un po' il cuore in pace. Va bene. Quindi io ti immagino adesso a fine tour, proprio davanti al caminetto, babbucce, regali, cappellino, cioè ti immagino in questo mood. Sei un po' Grinch. Ma anche adesso sto con il plaid, con birra vicino a me, che dorme sul divano. Meraviglia, cioè caffè, cagnolino, plaid, cioè a posto. Ma infatti chi l'ammazza? Nessuno, mai. Ma Marco, un'ultima domanda, consigliaci un pezzo da mandare in questa puntata. Ma dei miei o in generale? No, dei tuoi, io l'abbiamo già scelta, ma è Natale, io volevo uno così buttato lì. Allora, buttato lì un pezzo non mio, ti dico l'artista, diciamo, con cui sto più in fissa adesso, si chiama Yellow Days, è un artista inglese che al momento non è ancora mega famoso, ma lo diventerà, me lo auguro per lui, perché è fenomenale, e la canzone, fammi pensare, A Little While. Ok, segniamo. Super. Manderemo in onda. Days. È molto erotico. Mi piace a me. Buono a sapere. E conclude così lui. Ottimo. Va bene. Allora Marco, grazie mille per essere stato con noi. Ci vediamo sabato a Locomotive per la data del tuo tour e grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Un bacione. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.